I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Per chi avesse ancora dei dubbi sull'andamento dei prestiti delle banche a imprese e famiglie, non in questo caso per i mutui, ieri l'Associazione delle Banche Italiane questi dubbi li ha fugati. Anche a settembre, infatti, l'andamento dei prestiti delle banche italiane a famiglie e imprese è stato in calo, seppur in riduzione, un meno 0,2%, che è identico al dato di agosto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, nonostante i soldi messi a disposizione per le banche dell'area euro da Mario Draghi, a prestiti molto molto agevolati, purché vengano utilizzati per le famiglie, non per i mutui, e per le imprese, dicevamo, nonostante questo, non è ripartito il credito bancario. Certo, se uno va a guardare i dati dell'ABI, spicca l'andamento dei mutui, che nei primi 8 mesi dell'anno sono cresciuti dell'86%, il 30% surroghe, il resto nuovi mutui. Ma quando si parla di prestiti bancari a imprese e famiglie, non si intende certo quelli rivolti per l'acquisto dell'abitazione. Le banche hanno gioco facile a ribattere che sempre ieri il dato sulle sofferenze, ossia su quei crediti che non torneranno più indietro, che diventano inesigibili, sono arrivati a quasi 200 miliardi lordi, e che il rapporto tra impieghi delle banche, prestiti delle banche e sofferenze ha ormai toccato il 10,5%. Ma se non si riuscirà ad allargare l'imbuto dei prestiti delle banche, difficilmente assisteremo a una ripresa economica forte e solida. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. In attesa di leggere il testo definitivo del disegno di legge di stabilità, testo che dovrebbe approdare in Parlamento entro sera, il tema delle tasse sulla casa continua a tenere banco. Ieri sul profilo Facebook di Renzi abbiamo letto che case di lusso, ville e castelli continueranno a pagare l'IMU anche se sono utilizzati come abitazione principale. Tutti finora avevamo capito il contrario, e siccome il dietrofront di Renzi non può essere dovuto a problemi sui conti pubblici, il gettito di queste unità è solo di una novantina di milioni di euro, allora è chiaro che la scelta di far pagare le tasse a questi proprietari ha un valore tutto politico ed è anche una risposta alle tensioni all'interno del PD. Ora però sulla casa spunta un'altra sorpresa. I sindaci potrebbero continuare ad applicare un'addizionale fino allo 0,8 per mille sulle attuali aliquote, che potrebbe rendere ovviamente molto più pesanti le tasse su seconde case e sugli altri immobili che continueranno a pagare le imposte. In pratica, l'aliquota complessiva di IMU e TASI potrebbe salire fino all'11,4 per mille. Vedremo se e come il testo definitivo eviterà a questo rischio. Secondo alcune stime, in ballo ci sono fino a 2 miliardi di euro, un rischio che sarebbe in totale contrasto con l'idea più volte ribadita da Renzi di una manovra che per una volta porta tagli di tasse e non i soliti aumenti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.